Focus Economia. Le 17, 8 minuti, 45 secondi. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezzi e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Parleremo tra poco di evasione fiscale. Perché? Perché oggi sono stati diffusi dei dati importanti dalla Guardia di Finanza che riguardano i primi 5 mesi dell'anno. Si parla di 22 miliardi di evasione recuperati. Vedremo anche di capire poi quanto effettivamente ne incassa lo Stato, perché insomma è quasi la cifra corrispondente alla manovra correttiva al momento al vaglio del Parlamento. Parleremo di questo e cercheremo anche di capire una sorta di contrasto tra due dati, ossia quelli diffusi oggi da Merrill Lynch, che nel suo consueto rapporto annuale sui super ricchi, chiamiamoli così, stima in 178.000 gli italiani che hanno più di 1 milione di euro di patrimonio. Eppure lo sapete, ve li raccontiamo spesso questi dati, quelli sulle dichiarazioni dei redditi ci dicono qualcosa di completamente diverso. Ne parleremo con un generale della Guardia di Finanza, quindi ci saprà dare sicuramente qualche dettaglio in più. Ci occuperemo di questo, ci occuperemo di esportazioni italiane nella seconda parte della trasmissione, perché è stato presentato il bilancio di Simest, che è la società in gran parte a maggioranza pubblica che si occupa di sostenere le imprese italiane all'estero. E poi parleremo naturalmente dello yuan, perché oggi sono stati nuovi movimenti sulla valuta cinese. Parleremo subito dopo i mercati, in una giornata di mercato tra l'altro piuttosto negativa. Il FTSE MIB c'è dell'1,20%, il FTSE All Share l'1,09%, sono andate peggiorando negli ultimi minuti, seppure Wall Street si mantiene intorno alla parità. Le notizie in breve di questa giornata. Partiamo come sempre con il petrolio, aperto in calo a New York, un meno 0,5% a $77,47 al barile. Il tema energetico resta in primo piano per l'altra materia prima importante, ossia il gas. Perché? Perché così come un anno e mezzo fa circa c'erano stati parecchi problemi tra la Russia e l'Ucraina sul passaggio del gas attraverso i territori ucraino, ebbene adesso i problemi li crea la Bielorussia, perché il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha ordinato al governo di chiudere il transito del gas russo attraverso il proprio territorio finché Mosca non pagherà il debito per il passaggio del metano. E però, di contro, la Russia ha deciso a sua volta di tagliare il flusso di gas verso la Bielorussia, accusata di non aver rispettato le scadenze dei pagamenti. Per Russia, quando parliamo di Russia, parliamo di Gazprom, naturalmente. Oh, tra l'altro la Bielorussia avrebbe minacciato di prelevare il gas russo destinato ai paesi europei, appunto, che transita sul suo territorio. Dopo i massimi raggiunti ieri, l'oro invece, abbiamo detto del petrolio che è in lieve calo, l'oro viaggia stabile a $1,239 l'oncia in Asia. Si diceva dello yuan, la Cina ha fissato oggi un tasso di cambio di riferimento, lo sapete, è la notizia che ieri ha mosso i mercati, ha fissato un tasso di cambio di riferimento per la sua valuta di 6,7980 per un dollaro, confermando quindi una volontà di lasciare che lo yuan si apprezzi gradualmente. I mercati non ci hanno creduto un granché in realtà, perché lo yuan in realtà appunto sul mercato si è deprezzato meno 0,24%. Una buona notizia per l'Europa che riguarda la Spagna, una buona e una cattiva in realtà, perché il collocamento delle obbligazioni di Stato, dei bond, sono stati collocati 4 miliardi di euro in buoni a 3 e 6 mesi con una richiesta fortissima che ha superato i 13 miliardi di euro, e però i tassi sono cresciuti, sono all'1,57% per i bond a 6 mesi, in crescita rispetto all'ultima emissione, dello 0,91% per quelli a 3 mesi, sono cresciuti di circa un quarto per quello a 6 mesi e di circa la metà per quelli a 3 mesi. A proposito di crisi europee che poi coinvolgono naturalmente anche le imprese del vecchio continente, in particolare Crédit Agricole si è appreso che svaluterà 400 milioni di euro dal suo bilancio a causa delle perdite della partecipata greca Emporiki Bank of Greece. Gli oneri della seconda banca francese sono legati al peggioramento naturalmente delle condizioni di business della società greca. Si stimano perdite nel 2010 per 750 milioni di euro. A proposito di Agricole, invece, Intesa San Paolo ha ceduto al gruppo francese la partecipazione detenuta nella Cassa di Risparmio di La Spezia, più altre 96 filiali per 740 milioni di euro in contanti. E invece, a proposito di Intesa San Paolo, si è appreso oggi dal Consiglio di Gestione che ha deciso di sospendere il processo di quotazione in borsa della controllata banca Fideuram in attesa di migliori condizioni di mercato. Si diceva dell'Europa, oggi è stata presentata la manovra inglese, anche qua una manovra lacrime e sangue. A presentarla è stato il cancelliere dello scacchiere britannico George Osborne. L'economia britannica ha detto crescerà dell'1,2% nel 2010, la disoccupazione sarà all'8,1% a fine anno. E poi il governo britannico imporrà una tassa sulle banche dal gennaio 2010, un prelievo che produrrà 2 miliardi di sterline l'anno per le casse dello Stato, con l'accordo, tra l'altro lo ha detto, di Francia e Germania. Ma la norma più contestata in Parlamento è stata l'IVA, verrà innalzata l'IVA dal 17,5% al 20%. Ebbene, vi facciamo sentire una parte di quello che è successo nel Parlamento britannico in quel momento. On the 4th of January next year, the main rate of VAT will rise from 17.5% to 20%. The years of debt and spending make this unavoidable. This single tax. E questo è naturalmente lo speaker che richiama all'ordine i deputati inglesi. Questo dunque è quello che è successo durante la presentazione di questa manovra inglese. Si parlava del cambio dello yuan, dice la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia che è un vantaggio per le imprese europee perché può spingere ad un aumento della domanda interna della Cina, anche se la propensione principale di quel paese rimarrà l'export. Dice si tratta di una decisione che va nella direzione giusta. E ancora Emma Marcegaglia dice se in Europa non si comincerà a ritirare al più presto i piani anticrisi il rischio di creare distorsioni tra le imprese dei vari paesi. Infine, sull'Italia la strada per la piena ripresa sarà lunga, anche se gli ultimi dati sulla produzione industriale e il commercio mostrano un miglioramento della situazione. Poi ancora sulla tassa europea sulle banche ha ribadito la posizione già espressa nei giorni scorsi, tutto questo all'uscita da una serie di incontri all'interno della Commissione europea. Dice una tassa europea sulle banche si trasformerebbe in pochissimo tempo in maggiori commissioni e maggiori costi per i risparmiatori e le imprese. E a proposito dei rapporti tra banche e imprese, se ne è parlato questa mattina. Mercati, banche e imprese verso Basilea 3 sono i temi al centro della 42esima giornata del credito. Si parla di Basilea 3 perché? Perché è il nuovo accordo che segue quello di Basilea 2, che impone requisiti patrimoniali ancora più duri alle banche. Allora, che cosa temono le imprese? Temono una nuova stretta del credito. Dunque, Vincenzo Boccia, vicepresidente di Confindustria e presidente della piccola industria di Confindustria, al microfono di Maria Chiara Grandis. Oggi c'è, diciamo, una premura su questa questione di Basilea 3. Noi riteniamo che sia più prociclica di Basilea 2, il che significa che in fase recessiva come quella attuale corriamo il rischio di un'altra potenziale ristrettezza del credito che va a danno dell'economia reale. E quindi la questione è quando applicarla, perché se si sbagliano i tempi e si anticipano troppo, questo potrebbe creare qualche problema all'economia reale, che in questo momento non dovrebbe invece risentire di effetti restrittivi della politica di Basilea 3. La seconda questione è quella di aprire, diciamo, un confronto con le banche affinché la parte qualitativa della valutazione delle aziende sia sempre meno marginale rispetto alla parte quantitativa. Ci riferiamo a quei progetti che abbiamo chiamato progetto futuro, che è quello di avere la capacità di capire la visione e il futuro delle imprese, valutandole anche per il futuro e non solo per la constatazione di elementi quantitativi significativi, che però che non possono essere, come dire, l'elemento di valutazione delle imprese. Dice ancora il presidente di Confindustria: l'impressione è che i lavoratori mostreranno il senso di responsabilità che serve. Il riferimento è al referendum per Pomigliano, ve ne abbiamo riferito poco fa nel nostro giornale radio. Sono in corso le votazioni a Pomigliano, si dovrebbe avere un risultato intorno alle 11. Il resto della giornata di oggi: c'è stata la presentazione della relazione annuale al Parlamento dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il mancato rispetto delle regole e la presenza radicata e diffusa della corruzione è causa di una profonda e sleale alterazione delle condizioni concorrenziali. Ne fa una questione di mercato dunque il presidente dell'Authority Luigi Giampaolino. E ancora ha parlato di tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione che oscillano in un range che va da un minimo di 92 giorni ad un massimo di 664, e stima in circa 37 miliardi di euro, il 2,4% del PIL, la presunta esposizione debitoria della pubblica amministrazione. E poi ha parlato anche del ricorso a provvedimenti di natura emergenziale per gestire gli appalti. Sentiamolo. Per quanto riguarda questa parte della legislazione emergenziale, abbiamo più volte segnalato al governo il non congruo uso di queste norme. Abbiamo notato come venivano allocate così improvvisamente delle risorse, abbiamo notato come questi interventi non sempre erano confacenti allo scopo per cui erano previsti, abbiamo detto che questo potere derogatorio non poteva andare anche dopo la fine degli eventi e altre robe di questo genere. Veniamo al primo tema di questa giornata, ossia l'evasione fiscale. Sono stati diffusi oggi dei dati interessanti dalla Guardia di Finanza, un primo bilancio in questa prima fase del 2010 in occasione della festa per il 236esimo anniversario del Corpo. Nei primi 5 mesi del 2010 la Guardia di Finanza ha scoperto redditi non dichiarati al fisco per 22,2 miliardi di euro, a cui devono aggiungersi omessi versamenti IVA per 3,1 miliardi di euro. Decisamente parecchia roba. Saluto il generale Giuseppe Vicanolo, capo del terzo reparto operazioni della Guardia di Finanza. Buonasera generale. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, i dati sono abbastanza chiari è sicuramente un bilancio positivo, insomma, perché se non erro la crescita è di circa un 50% rispetto ai primi 5 mesi dell'anno scorso, mi corregga se sbaglio generale. 40% per l'esattezza. 40% per l'esattezza, insomma, siamo là, sono comunque cifre importanti. Quello che vorrei capire da lei in prima istanza è una sensazione da investigatore. Noi vediamo scorrere sotto i nostri occhi, da giornalisti in particolare, ma anche i nostri ascoltatori lo sentono spesso, sentono questi dati che vengono diffusi con una certa frequenza sul recupero dell'evasione fiscale. Da voi, dall'Agenzia delle Entrate e talvolta anche da altri istituti. Si ha l'impressione che ci sia stata una stretta forte. Quello che vorrei sapere da un investigatore che si occupa di queste cose è se l'effetto deterrenza c'è stato oppure no. Insomma, questa montagna dell'evasione quant'è ancora alta da scalare? Guardi, la deterrenza è nei fatti, è nei numeri, nelle cifre, che se lei pensa che nel 2006 noi abbiamo aumentato del 25% le capacità operative destinate ai controlli fiscali, e rispetto all'inizio di questa strategia, nel 2009 abbiamo raddoppiato i redditi verbalizzati per il recupero a tassazione, passando da 16,8 a 33 miliardi e 6. Quest'anno i 22 della prima parte, dei primi 5 mesi, sono una conferma di un trend di andamento dell'azione di contrasto che è partito e non si ferma più. Le aggiungo che è partito non solo in termini di scoperta dell'evasione, i nostri verbali sono il prodotto della ricerca e poi della verbalizzazione delle violazioni, ma quello che è altrettanto importante è aumentato anche il gettito della lotta all'evasione, perché l'Agenzia delle Entrate che assume dai verbali le notizie utili per rettificare le dichiarazioni e irrogare le sanzioni, nello stesso arco temporale è passata da 4 miliardi e 4 di tributi riscossi grazie alla lotta all'evasione a 9 miliardi e 100 nel 2009. Quindi, come vede, abbiamo un trend, se lei mi fa la domanda, della montagna da scalare. Io le dico che la risposta sul campo è sicuramente più determinata, più forte e in crescita, senza cali di tensione. La montagna è stata quantificata dall'Istat, noi abbiamo l'ultimo dato ufficiale 2006 pubblicato dal rapporto Istat qualche tempo fa, che fa riferimento a 238 miliardi di economia sommersa, di valore aggiunto prodotto dal nostro sistema economico e non dichiarato al fisco. Quindi, se lei mi chiede quando finirà questa scalata, noi abbiamo presente questo obiettivo a tendere. Generale, ci chiede un ascoltatore via SMS al 349-238-6666 una domanda che già avevamo preannunciato prima che le avremmo fatto. Ci dice, è vero che di questi 22 solo una piccola parte ritorna allo Stato? E la domanda è soprattutto con che tempi questi soldi poi rientrano? Quanti di questi 22,2 miliardi effettivamente entrano nelle casse dello Stato? Perché lei citava il dato dell'anno scorso, però prendiamo il dato di oggi e vediamo di fare un esempio generale. Ma guardi, il nostro sistema prevede per la fase dei controlli, delle verifiche sul campo, l'acquisizione di informazioni utili al fine dell'accertamento, quindi noi scopriamo le irregolarità fiscali, i ricavi che sono stati sottodimensionati rispetto a quelli effettivamente incassati, oppure i costi che sono stati gonfiati rispetto a quelli reali in modo da abbattere il reddito, e per ciascuna di queste situazioni irregolari verbalizziamo le risultanze. Quando va all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate questo semilavorato, il verbale Guardia di Finanza o dei verificatori della stessa agenzia con questi elementi informativi, il funzionario che si occupa dell'accertamento è tenuto a determinare la capacità contributiva reale che deve essere tassata, per la quale deve riconoscere anche i costi neri correlati ai ricavi che sono stati sottodimensionati, cioè se uno ha dichiarato 100 di ricavi e quelli che sono rettificati sono 200, i costi grazie ai quali ha conseguito maggiori ricavi in sede di accertamento vengono riconosciuti, ed è questa la principale delle motivazioni tecniche per cui si passa dagli importi di basi imponibili 22 miliardi segnalati dalla Guardia di Finanza a redditi poi accertati in misura contenuta, ma non perché ci siano errori o disfunzioni nella macchina dalla scoperta all'accertamento, ma per una questione tecnica, fisiologica. Okay. E di legge. Allora, io vorrei farle sentire una cosa, generale. È stato presentato questa mattina a Milano il World Wealth Report 2010, che è l'indagine annuale sulla distribuzione della ricchezza a livello mondiale. In questo rapporto, realizzato da Merrill Lynch e Capgemini, ci si concentra sul numero di persone che hanno un patrimonio superiore al milione di euro. Roberto Bonaldi ha intervistato Ettorina Schiaffonati di Capgemini. Sentiamo che cosa gli ha detto. Nel nostro report rileviamo diversi fenomeni. Il primo, per quanto riguarda l'Italia, assistiamo a una crescita del numero di milionari, cioè di individui che posseggono un patrimonio finanziario superiore al milione di dollari. Una crescita, dicevamo, che si attesta intorno al 9,2%, e il numero di milionari in Italia quest'anno è 178.800. Dal punto di vista, diciamo, del cambiamento dei trend dell'industria della ricchezza, vediamo un cliente che è ancora cauto sulla ripresa dei mercati, che è molto più attento, diciamo, agli investimenti e più attento, diciamo, alle perdite che ai guadagni, e che è cauto quindi negli investimenti, anche se incomincia a capire di dover diversificare il proprio portafoglio, inizia a investire soprattutto su quei prodotti obbligazionari che danno redditi prevedibili e sicuri. Anche se si assiste a un incremento, diciamo, dell'investimento nel mercato azionario. Oh, naturalmente, al di là della questione dell'investimento, che in questa sede col generale Vicanolo ci interessa relativamente, ci interessa il dato, insomma, 178.000 italiani con un patrimonio superiore al milione di euro. Segnatevi questo numero, perché invece, un dato che vi abbiamo ripetuto spesso, gli ultimi dati sulle dichiarazioni dei redditi indicano uno 0,2% degli italiani, ossia 75.000 persone, di cui 62.000 dipendenti o pensionati, e quindi assai meno a rischio evasione, sono quelli che dichiarano oltre 200.000 euro lordi l'anno. Insomma, in generale sono dati che fanno riflettere, si parlava di quanto è alta la montagna. No, sono dati che fanno riflettere lei, me e tutti i cittadini italiani che evidentemente, quando hanno a che fare con la coscienza fiscale, dovrebbero essere indotte a qualche riflessione. Io condivido il fatto che di fronte a queste cifre l'indignazione deve lasciare spazio alla determinazione dell'azione di contrasto all'evasione. Non possiamo pensare di aver raggiunto una meta finché i dati, i numeri arrivano a questa entità. Le posso però segnalare una novità che mi sembra importante come approccio nuovo a questo mondo dei possidenti. Veda, il redditometro attuale si fonda sul possesso di indici di capacità contributiva, sul possesso di beni di lusso che devono essere ricondotti al contribuente per poterlo tassare sulla base della capacità contributiva reale. Negli ultimi anni l'applicazione di questo istituto ha incontrato le difficoltà dovute alla intestazione fittizia, alla intestazione presso società fiduciarie, trust o addirittura all'assunzione con società di leasing o di charter, di noleggio di questi beni, pur di evitare la tassazione dei redditi correlati. Con la manovra fiscale finanziaria ultima, questa del decreto legge 78 di poche settimane fa, sull'accertamento sintetico si incentra una riforma di settore che prevede che le spese sostenute dai contribuenti equivalgono a guadagni tassabili, a redditi imponibili, salvo prova contraria. Quindi questi 178.000 possidenti che ogni anno spenderanno per il loro milione di dollari di patrimonio finanziario non so quanto per incrementi o spese di sostenimento, di manutenzione, bene, quelle spese questo anno d'imposta costituiranno base imponibile direttamente tassabile. C'è l'inversione dell'ordine della prova, devono essere loro a provare il contrario, che cioè le spese sostenute derivano da redditi già sottoposti a tassazione alla fonte oppure da proventi non costituenti reddito. Benissimo, io la ringrazio, generale Vicanolo, il generale Giuseppe Vicanolo, che è capo del terzo reparto operazioni della Guardia di Finanza, per essere stato con noi e per averci anche aiutato a capire questo aspetto della manovra che evidentemente sarà particolarmente importante, particolarmente favorevole agli investigatori come lui. Grazie generale Vicanolo e buonasera. Grazie a voi, buonasera. Poi vedremo più avanti se avremo tempo di recuperare altri file audio, altre interviste sul tema della ricchezza, non solo degli italiani, ma della ricchezza nel mondo, dei ricchi nel mondo più che della ricchezza nel mondo. Adesso c'è una breve pausa, ci troviamo subito dopo per la borsa. Le 17:39 minuti e 15 secondi, non che non abbia ragione Fulvio da Napoli che ci scrive, ma guardate che il rapporto Capgemini parla di patrimonio finanziario e non di reddito. Certo, non siamo caduti nell'errore di non fare la distinzione tra le due cose. È certo però che 178.000 persone che hanno un milione da parte, insomma, in qualche modo l'avranno guadagnato, insomma, non avranno ereditato tutti quanti. La borsa. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, giornata complessivamente negativa e come sempre con le banche a guidare i ribassi. Esatto, infatti sin dalle prime battute di questa mattina è stato proprio il settore bancario il tallone d'Achille di tutte le borse europee, questo perché Fitch, l'agenzia di rating, ha lanciato un allarme su BNP Paribas, pur ammettendo che la banca francese è assolutamente solida, ha tuttavia rivisto al ribasso il giudizio sul debito di lungo termine dell'istituto e questo ha scatenato ovviamente le vendite su tutto il settore bancario europeo, che in effetti è stato uno dei peggiori, appunto, è stato uno che ha registrato le peggiori performance. Non hanno fatto eccezione le banche italiane, che anzi sono andate male, anche perché peraltro a pesare sul settore c'è stato anche un report abbastanza negativo di Citigroup, che ha espresso perplessità almeno nel breve periodo sul comparto italiano bancario. Giù il FTSE MIB dello 0,97%, il FTSE Share dello 0,86%, nel frattempo Wall Street recupera, il Dow Jones guadagna lo 0,26%, il Nasdaq lo 0,90%. Questo è il quadro sugli indici, andiamo sui singoli titoli, inizierei dalle note dolenti. Eleonora, Fondiaria Sai, meno 3,91%, come mai? Sì, Fondiaria Sai ha registrato una delle peggiori performance perché continuano a salire i dubbi sull'operazione di cessione che è in corso del polo assicurativo Liguria e Sasa Assicurazioni. E secondo gli esperti, infatti, cioè il prezzo richiesto da Fonsai per cedere tale polo assicurativo è un po' elevato, si parla di 350-400 milioni richiesti. E in secondo luogo sono interessati soprattutto fondi di private equity, ad esempio ha espresso una manifestazione di interesse anche Clessidra, ma pare che l'ISVAP sia abbastanza scettica sull'eventuale vendita del polo assicurativo a un fondo di private equity. Insomma, tanti dubbi all'orizzonte. Di fatto comunque oggi dovrebbero essere state presentate delle offerte non vincolanti da parte di chi è interessato per comprare il polo assicurativo. A ruota di Fondiaria c'è Intesa San Paolo, un calo del 2,62%, le due notizie che riguardano Intesa oggi le abbiamo date, ha ceduto Sportelli ad Agricol e la partecipazione alla Cassa di Risparmio di La Spezia per 740 milioni di euro, si diceva la Cassa di Risparmio di La Spezia e altre 96 filiali e poi ha deciso di sospendere il processo di quotazione in borsa della controllata banca Fideuram per avverse condizioni di mercato. Eleonora, tutto questo immagino che abbia a che fare con la performance di Intesa. In verità, quando sono uscite le notizie, i titoli non hanno reagito più di tanto, del resto soprattutto la notizia di un eventuale slittamento della quotazione di Fideuram era un po' nell'aria nelle ultime settimane. I titoli di Intesa, d'altra parte, avevano corso molto la scorsa settimana, quindi oggi sono andati male con tutto il settore delle banche. Bene Ansaldo, ecco, andiamo sui titoli che insomma che hanno fatto bene nella giornata di oggi, come mai? Sì, Ansaldo si è distinta dalle prime battute di questa mattina, poi pian piano ha ampliato i propri guadagni. La borsa sta premiando la società che sta vincendo una commessa dietro l'altra. Ieri infatti l'azienda aveva annunciato, ricordiamo, di aver vinto il contratto per il potenziamento del porto di Genova. Questa mattina invece ha detto che realizzerà la linea 6 della metropolitana di Napoli per 160,5 milioni di euro. Quindi tutte notizie positive per l'azienda, che così è stata premiata da Piazza Affari. Bene, oggi si fa per dire naturalmente anche il settore energia. L'energia in effetti è sostenuto ovviamente dall'elevato livello del prezzo del greggio, che nonostante appunto oggi abbia fatto un passo indietro comunque rimane intorno ai 77 dollari al barile. In aggiunta c'è un report positivo su tutto il settore espresso da Goldman Sachs, che quindi ha sostenuto le azioni un po' di tutto il comparto. Goldman Sachs inoltre ha espresso un giudizio molto favorevole anche nei confronti di Eni, che non a caso ha guadagnato sul finale lo 0,12% andando in controtendenza. Tra l'altro proprio oggi a riaccendere i riflettori sulla compagnia petrolifera è stata anche la notizia che Eni ha scelto 5 banche per emettere un bond a 10 anni a tasso fisso. Grazie dunque anche per oggi ai colleghi di Radio Coro Il Sole 24 Ore, grazie ad Eleonora Micheli, buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Un quadro finale di giornata, di Ansaldo si diceva più 2,35%, bene Luxottica più 0,98%, Geux più 0,71%, Tenaris più 0,45%, più 0,37%, Parmalat più 0,29%, Autogrill, di Eni si è detto, Pirelli più 0,10%, appena sotto la parità terna, Finmeccanica in calo dello 0,11% e dello 0,40%, Atlantia, Azimut e Banco Popolare e Campari, l'automatica dello 0,43%, così come ST Microelectronics dello 0,44%, Snam Rete Gas, Exor di mezzo punto percentuale in pregiro dello 0,60%, così come Saipem giù di oltre lo 0,8%, Prismian, Generali e Mediaset, Enel dello 0,91% e Telecom Italia dello 0,98%. Oltre un punto percentuale di calo per Buzzi, Fiat, Mediobanca e Italcementi, un punto e mezzo per Mediolanum, A2A in calo dell'1,64% e poi molti bancari, la Popolare di Milano meno 1,81%, il Monte dei Paschi l'1,90%, Unicredit 2 punti percentuali, Unipol meno 2,08%, giù anche CIR di 2 punti percentuali, Bulgari del 2,5% e D'Intesa e Fondiaria abbiamo detto con l'euro che quota 1,23,06 contro dollaro. La via ci ritroviamo subito dopo, parleremo giusto appunto di cambi. E siamo, come si diceva, all'altro tema che ha dominato ieri in realtà la giornata di mercati, anche se anche oggi c'è qualche notizia, perché la Cina, lo sapete, ha ceduto alle pressioni americane, ha annunciato che lo yuan sarà più flessibile, questo dopo quasi due anni in cui la moneta cinese è stata legata al dollaro con un tasso di cambio praticamente immobile. Pechino ha però precisato che non vi saranno repentini apprezzamenti nel breve periodo. Oggi è stato fissato un nuovo cambio di riferimento che doveva favorire l'apprezzamento dello yuan, poi in realtà invece sui mercati la valuta cinese ha ripiegato. Saluto Massimo Papetti, gestore di fondi valute ed ex presidente di Euroforex. Buonasera Papetti. Buonasera a tutti. Allora, ci faccia capire una cosa, questa mossa della Cina, che è chiaramente una mossa di stampo geopolitico, se così vogliamo dire, di avvicinamento al G20 di Toronto, all'incontro tra il presidente americano Barack Obama e quello cinese Hu Jintao, nasconde una vera volontà di far apprezzare lo yuan o è solo un giochetto momentaneo, chiamiamolo così? Direi che parlare e capire le mosse cinesi non è assolutamente facile, in particolare in uno scenario di mercato complicato come quello in cui stiamo attraversando. Per cercare di capire mi guarderei lo scenario che abbiamo vissuto, cioè c'è stato dal 2005 una rivalutazione dello yuan di circa il 20% nei confronti del dollaro e un 25% di riduzione nei confronti dell'euro. Questo ha portato che le esportazioni cinesi non hanno avuto problema in nessuna delle aree in cui è stato svolto appunto l'esportazione. Solo la crisi che c'è stata negli ultimi periodi ha rallentato questo tipo di riduzione. Quindi un cambio fisso legato che torna a scendere, export riprende i livelli di prima su tutte le tre aree, quindi un'economia che tira, l'economia cinese che comunque continua a funzionare, tutto questo fino a quando, dal fine anno ad oggi, il dollaro non ha incominciato la discesa e quindi ha perso terreno nei confronti ha recuperato il terreno nei confronti dell'euro, e questo quindi ha creato un grosso problema per la Cina nei confronti del vecchio continente, inizia a preoccupare la situazione. Direi che a questo punto quindi diventa un problema, come diceva lei giustamente, geopolitico. Non dobbiamo dimenticarci che infatti la Cina è il principale finanziatore del debito pubblico americano con oltre 1.000 miliardi di dollari. E questa situazione in uno stato di economia così complicato come quello di adesso può portare comunque a diventare esplosiva. I cinesi si sono sempre chiesti, hanno sempre fatto richiesta di poter trovare una sostituzione al valore del dollaro per come valuta riserva, visto che tutte le riserve delle principali banche centrali sono detenute in dollari, e questo, non potendo creare un'alternativa rispetto al dollaro, si sta pensando, hanno sempre richiesto di poter pensare a un'altra strada. Questo è un problema, perché potrebbe chiaramente pensare di creare nel problema nella stabilità del tasso di cambio, e quindi questo scenario potrebbe essere preso in considerazione. Ribadiamo che comunque dicono che non ci sarà un grosso movimento, ma potrebbe addirittura arrivare alla situazione paradossale che lo yuan si rivaluti nei confronti del dollaro, quindi ha la possibilità di addirittura diventare competitivo maggiormente. Quindi sarebbe una cosa veramente paradossale. Tutto quindi probabilmente è rivolto a presentarsi al G20 di settimana prossima, facendo capire che il vero problema non è lo yuan, ma il vero problema è il dollaro, e quindi della sua potenzialità. Questo è il punto. Ci può spiegare in parole, come dire, abbastanza semplici, a lungo termine, ma anche a medio termine, che difficoltà crea, che situazione potenzialmente esplosiva, come lei l'ha definita, si crea nel momento nel quale la Cina, e lo abbiamo ripetuto più volte, è il principale detentore di debito pubblico americano, e lo yuan resta sostanzialmente stabile? Qui il problema è appunto il fatto che la mancanza di fiducia nella economia americana, e quindi nella possibilità di restituire il debito che i sottoscrittori cinesi hanno fatto appunto nei titoli di Stato americano, inizia a creare degli scompensi all'interno della mentalità dei fazioni cinesi che ci sono, che comunque iniziano a dire: effettivamente, ma l'America sarà in grado di poter garantire il rimborso degli investimenti che abbiamo fatto? E siccome sono investimenti di elevata portata, perché sono enormi, sono cifre veramente importanti, questo è una domanda che inizia a porsi. È chiaro che stiamo parlando di problematiche che, se dovessero iniziare veramente a sorgere, diventano un problema. Qui probabilmente si sta pensando già a qualcosa di alternativa, non dico di arrivare alla alla moneta sovranazionale che stanno chiedendo loro, ma però lo spostamento, che come vediamo su valute riserva tipo lo svizzero oppure sull'oro, danno già dei segnali che potenzialmente qualcosa si sta muovendo, e questo disancoraggio rispetto al dollaro potrebbe essere una forza per poter dire: cerchiamo di andare verso quella strada. Grazie dunque a Massimo Papetti, gestore di fondi valute, ex presidente Euroforex. Buonasera. In chiusura di questa prima parte di Focus Economia, ritorniamo sul rapporto presentato da Merrill Lynch e Capgemini sulla ricchezza, a trainare la ripresa della ricchezza e l'area asiatica del Pacifico, con l'evidenza di Hong Kong. Si è detto 179.000 i più che milionari in Italia, più 9% sul 2008. Intervistata da Roberto Bonaldi, Isabella Fugazza di Merrill Lynch ha spiegato quali sono le principali novità emerse dall'indagine di quest'anno. Finalmente, dopo la decrescita anche molto incisiva del 2008, abbiamo assistito nel 2009 a una forte crescita sia in termini di numero di ricchi sia in termini di valore dei rispettivi patrimoni. In termini di localizzazione geografica, ovviamente abbiamo dovuto prendere atto del fatto che l'area dell'Asia, quella che noi chiamiamo Asia Pacific, ha messo a segno la crescita più sostenuta oltre il 30%. E in termini, diciamo, di modalità di investimento, abbiamo registrato anche qui una fortissima allocazione dei capitali in crescita verso l'area dell'Asia e diciamo abbiamo registrato anche alcune conferme delle tendenze e delle modalità di preferenze degli investimenti che sono state tipiche negli ultimi anni. Per esempio, area Nord America, gli investitori americani hanno confermato la loro propensione per l'area azionario, come da sempre succede. Area Medio Oriente si è confermata anche in questo caso la preferenza per gli investimenti in real estate. Direi che i fattori che hanno influito e determinato questo aumento sono sostanzialmente due. Da un lato la fortissima crescita delle borse asiatiche, che hanno messo a segno più 100% in svariati casi come Cina, India, Hong Kong, eccetera. Dall'altro sicuramente la crescita delle economie reali, che anche in questo caso è stata molto sostenuta. I due fattori combinati insieme hanno prodotto questo effetto. Per quanto riguarda anche questi investimenti, c'è una sorta di prudenza ancora per i milionari? Sì, senz'altro. Si può dire che nel 2009 sono tornati ai mercati, ma in modo molto, molto prudente e direi anche più consapevole rispetto al passato, dopo la grande paura del 2008. E adesso la linea al giornale radio, ci ritroviamo subito dopo, parleremo dell'oro e poi parleremo di export. Le 18, 10 minuti, 22 secondi, bentornati a Focus Economia, gentili ascoltatori. Come annunciato abbiamo parlato poco fa di valute, adesso invece tocchiamo un altro tema che ha un po' attraversato i mercati non solo negli ultimi mesi ma direi negli ultimi anni ed è quello dell'oro. Allora, ha toccato ieri il record storico a $1,265,30 l'oncia e viaggiava intorno ai $1,239 sui mercati asiatici questa mattina, poco sopra i valori poi di chiusura di ieri sera, ma soprattutto un più 15% circa dall'inizio dell'anno e se chiudesse come molti analisti prospettano anche quest'anno in crescita sarebbe il decimo anno consecutivo di crescita per questa materia prima, se tale si può definire, insomma. Saluto Roberto Binetti, amministratore delegato di Confinvest, finanziaria privata, fiduciaria delle principali banche per le monete e i metalli preziosi. Buonasera Binetti. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, negli ultimi 10 anni, partiamo da lontano, negli ultimi 10 anni sembra insomma che sia stato costantemente un periodo di recessione, perché se è vero come si dice, come vuole anche la vulgata, che l'oro sia il bene rifugio per eccellenza, insomma 10 anni di crescita sono qualcosa di notevole. $875 l'oncia, adesso oggi abbiamo raggiunto veramente un record storico, ma vede, siamo sicuramente in un periodo di spartiacque, però bisogna fare molta attenzione, perché agli investitori che hanno acquistato negli anni 60, 70, 80 come bene rifugio, vi ricordate la guerra fredda, oggi come oggi se non sono giovanissimi conviene vendere, non c'è dubbio, oggi ottengono delle plusvalenze inimmaginabili. E pertanto noi consigliamo in questo periodo la vendita, però in contropartita alle nuove generazioni, trentenni di oggi che vogliono assicurarsi un futuro, che hanno ancora un po' di spazio anche sotto un profilo temporale, noi consigliamo l'acquisto di oro in una percentuale che può andare dal 10 al 20% su tutto il patrimonio immobiliare. C'è ancora spazio, perché gli analisti americani vedono l'oro $1,600 l'oncia entro un anno e mezzo. Ci spiega un pochino le cause, al di là di quella che abbiamo già detto, cioè che l'insicurezza dei mercati, poi andremo un attimo sulla prospettiva, perché c'è chi stima che arrivi a fine anno a 1.400 dollari l'oncia e a 1.600 nel 2011, però prima vorrei capire da lei che cosa sta succedendo effettivamente, al di là di quel che abbiamo visto nelle ultime settimane sui mercati, insomma dei pesanti ribassi, c'è anche qualcos'altro o no? I fattori sono molteplici, le borse internazionali danno poca garanzia, le speculazioni sul metallo con contratti a termine, l'acquisto di oro da parte di alcune banche centrali, la Cina, l'India, i paesi arabi, la stessa Germania, la preoccupazione di una pesante inflazione e l'interesse di privati investitori che acquistano oro come bene rifugio, sono molti i fattori che hanno influito questo andamento, questo trend in salita dell'oro. E quindi l'elemento è sempre quello. Allora, le vostre stime per i prossimi mesi, anni? Io ritengo che gli analisti americani raramente sbagliano nel settore dell'oro. Loro lo vedono entro un anno e mezzo, 1.600 dollari l'oncia, c'è da crederci. Non c'è dubbio, il trend ormai è in salita, anche perché vediamo tutti i giorni, noi diamo anche le quotazioni a tutti i giornali in Italia, noi vediamo che tutti i giorni ci sono dei piccoli rimbalzi a tecnici, ma non ci sono ricadute pesanti. Pochissimi rimbalzi tecnici e costantemente il metallo aumenta, perciò vuol dire che c'è un interesse internazionale, mondiale. La stima di 1.400 dollari, l'ipotesi di 1.400 dollari entro fine anno, lei la ritiene credibile? Sì, noi ci crediamo, sì, ci vorrebbe ovviamente la palla di vetro. Sì, no, vabbè, quello è chiaro. Sicuramente ci crediamo, insomma, se il trend è questo, in questo periodo non vediamo l'orizzonte dei periodi tanto, tanto simpatici per l'economia internazionale, per le borse, pertanto riteniamo che l'oro come bene rifugio sia sempre una garanzia assoluta e che sicuramente verrà utilizzato da tutti i risparmiatori per accantonare delle garanzie che in questo momento è difficile trovarne con altri strumenti di investimento. Sì, diventa bene rifugio, tra l'altro Binetti, sia da una parte e dall'altra dell'oceano, insomma, sia per quel che sta succedendo in Europa che per quel che succede negli Stati Uniti, insomma, l'impressione è che in questa fase non ci siano grosse differenze. No, non ci sono differenze, no. A prescindere dalla valuta, dico, naturalmente. No, abbiamo visto anche proprio delle nazioni intere, degli investitori, ad esempio gli investitori tedeschi che stanno acquistando oro in tutte le parti del mondo perché hanno paura di questa inflazione, hanno paura dell'euro, hanno paura insomma di questa crisi che potrebbe arrivare pesante nell'economia internazionale e pertanto tutti stanno acquistando materiale aureo. Ultima domanda, che peso ha, che impatto ha avuto la questione valutaria, cioè l'indebolimento del dollaro nei confronti dello yuan, ha avuto un qualche effetto? Le ripeto, la richiesta è assoluta proprio come bene rifugio del metallo per garantire almeno una parte della propria parte immobiliare che uno detiene. Questo è un fondamentale. Bene, grazie a Roberto Binetti. Mi scusi, ce n'abbiamo un'ultima domanda. C'è chi si spinge fino al 2011 e dice 1.600 dollari l'oncia. Lei cosa dice? Bisognerà chiamare un mago. È una domanda da porre a un mago, non a noi. Non a voi. Non sarebbe serio rispondere, non è possibile. Grazie niente, dunque. Grazie dunque a Roberto Binetti, amministratore delegato di Confinvest, per essere stato con noi. Adesso la viabilità, ci ritroviamo subito dopo. Parliamo di Made in Italy e di export. Ci fa notare un ascoltatore la fallibilità delle stime, ricordando che qualche tempo fa si immaginava il petrolio a 200 dollari al barile e invece insomma siamo intorno ai 74-75 le quotazioni di oggi, se non sbaglio, ma lo stesso Binetti ci ha detto insomma non siamo dei maghi, non è che si può prevedere tutto, questo è quello che riusciamo a immaginare dal nostro osservatorio privilegiato. Adesso, come si diceva, parliamo di Made in Italy. C'è stata oggi l'assemblea annuale che ha approvato il bilancio 2009 della Simest. Che cos'è la Simest? È la finanziaria pubblico-privata, prevalentemente pubblica, per lo sviluppo delle imprese italiane all'estero, il cui azionista di maggioranza è il Ministero dello Sviluppo Economico, partecipata dalle principali banche italiane e dal sistema di Confindustria. La società ha conseguito i risultati più elevati dall'inizio dell'attività, ricavi per 44,2 milioni di euro, margine operativo di 19,5 milioni, utile ante imposte a 16,9 milioni ed utile netto di 10,5 milioni. Saluto l'ingegnere Massimo D'Aiuto, amministratore delegato di Simest. Buonasera ingegnere. Buonasera a voi. Allora, dati complessivamente positivi, ci può, questi, come dire, li abbiamo forniti, distribuirete tra l'altro anche un dividendo al tesoro, no? Assolutamente sì, distribuiamo un dividendo che testimonia come la società non solo sia efficace, come diremo spero dopo, ma anche efficiente, nel senso che non costa allo Stato, anzi contribuisce con un dividendo che va per il 76% all'azionista pubblico, per il 24% alle principali banche italiane che sono gli azionisti privati e anche a Confindustria, con una quota piccola ma rappresentativa del rapporto con le imprese. Ingegner D'Aiuto, ci spiega in due parole, se ci riesce naturalmente, che cosa fa Simest? Voi intervenite nel capitale e non solo? Noi facciamo principalmente tre cose: partecipiamo al capitale di rischio delle società che si fanno insieme alle imprese italiane in tutto il mondo, partecipiamo come Simest PAE, gestiamo un fondo di venture capital pubblico a gestione privata Simest, molto importante, poi assistiamo le aziende per arrivare a ottimizzare il loro potenziale di sviluppo all'estero sotto varie forme, assistenza, scouting, veramente un assortimento di consulenza specializzata molto importante. E ultimo non ultimo, gestiamo come in concessione, gestiamo tutti gli strumenti per l'internazionalizzazione di impresa come agevolazioni, quindi le attività di export credit, i finanziamenti diretti per lo sviluppo commerciale all'estero, per studi di fattibilità, assistenza tecnica e ultimo, innovato recentemente, c'è uno strumento che serve a patrimonializzare le aziende. Siete di fatto l'interfaccia imprenditoriale delle nostre imprese, ci si consente il gioco di parole, all'estero. Allora, avete approvato, e mi corregga se i numeri sono sbagliati, ma insomma, francamente non credo, approvato 79 progetti di imprese italiane all'estero con un impegno di 101 milioni di euro, parliamo del 2009, investimenti complessivi all'estero per circa 1 miliardo di euro, quindi notevoli. E quali sono le zone del mondo dove siete maggiormente presenti, dove siete più impegnati? Ma sicuramente siamo molto presenti, perché sono anche le economie emergenti che hanno tirato avanti nel complesso l'economia mondiale, e quindi in Cina, in India, Brasile e Russia, che hanno avuto soprattutto nella seconda parte del 2009 un buon andamento, e paesi del Golfo, quindi siamo presenti nelle aree, diciamo, nelle economie emergenti in modo molto forte. A questo si aggiunge anche una presenza per esempio sugli Stati Uniti, che è tutt'altro che marginale, perché le nostre aziende, che sono, hanno una grande vocazione manifatturiera, nella loro eccellenza e capacità tecnologica riescono a entrare, questo anche grazie al nostro supporto, ma è un merito innanzitutto delle nostre imprese, si riesce a fare un buon lavoro su quei pezzi dell'industria americana che stanno andando in svendita oramai da tempo. E quindi siamo entrati in competizione con tedeschi, giapponesi, francesi, e devo dire che ci siamo difesi bene, abbiamo fatto ottime acquisizioni anche negli States. Abbiamo pochissimo tempo, ho due domande molto rapide. La prima riguarda i dati di ieri diffusi che riguardano l'export, aumentato del 15,8% verso i paesi extraeuropei, l'importazione del 35,5%, deficit per 1 miliardo 416 milioni di euro, il deficit commerciale. Questi sono i dati forniti dall'Istat ieri. Io voglio capire un pochino che segnali ricevete voi, perché i dati dell'Istat sono sempre ritardati quantomeno di un mesetto, insomma, rispetto a quella che è la realtà economica del momento. Noi li vediamo anche un po' in anticipo, poi magari se c'è tempo le spiego perché, ma in ogni caso questi dati sono importanti. Cosa segnano? Il nostro export continua a crescere, questo è un dato fondamentale, perché le esportazioni sono di beni e direi non sono solo nel nella moda, attenzione, sono molto sull'high tech, macchinari, impianti, non dimentichiamoci che l'Italia è prima al mondo, subito dopo la Germania, in questo settore della meccanica, della meccatronica. Dopodiché questi dati invece delle importazioni, che sono cresciute in modo molto più vistoso, sono dovute soprattutto a due effetti: una leggera ripresina italiana, ma soprattutto alla bolletta energetica. Questo è chiaro d'aiuto. Molto, a 10 secondi di tempo per dirmi che segnali vedete voi per i prossimi mesi. Noi vediamo un rafforzamento delle nostre imprese manifatturiere, sia per l'effetto di un euro che, per fortuna, con fasi alterne comunque è un po' meno imponente, non più debole, meno imponente di prima. Lo yuan che si è rivalutato un po' ci aiuta su quell'area di mercato, e in più le nostre aziende sono sicuramente eccellenti dal punto di vista della capacità competitiva ed attiva, sono molto forti, sono cresciute, lo testimoniano anche gli investimenti che abbiamo realizzato lo scorso anno, che sono in crescita. Un anno di crisi, i nostri investimenti sono cresciuti, come diceva lei prima, del 22%. Quindi buone notizie. Io ringrazio l'ingegner Massimo D'Aiuto, amministratore delegato di Simest, col quale dobbiamo chiudere qua perché il tempo è scaduto. Grazie e buonasera D'Aiuto. Grazie a voi, buonasera, arrivederci. Ringrazio Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, Pietro Lacorte in regia. Un ringraziamento naturalmente a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, buona serata. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.